When you see me with some other one, they know your son. Eccoci per la quarta radio presentazione in diretta su Radio Wombat e da degli altoparlanti qui dal chiostro di Santa Apollonia. Stasera parliamo con radio conversazione con Felice Akame. Ho detto sì, bene? Sì. Hai detto, hai detto benissimo. A parte la difficile. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. E la conversazione di stasera assume un taglio un po' particolare perché parleremo di letteratura specialistica e al contempo interdisciplinare, e parleremo delle implicazioni che assumono nel sociale le declinazioni pratiche di queste investigazioni teoriche. E sì, intanto saluto Felice che è qui. Sì. Buonasera a te, Manuela. Felice, come definirti? Filosofo, linguista, saggista, epistemologo? Io posso dire intanto che ti ho incontrato alle tue lezioni di teoria della comunicazione alla FIGC, che sei presidente della Società di Cultura Metodologica Operativa a Milano, e io ti ho conosciuto personalmente come saggista e autore di Le metafore della complementarietà, che è un libro in cui ti occupi di smascherare le modalità attraverso le quali le metafore si fanno specchio d'espressione di quello che definisci un cadavere nell'armadio della cultura di una certa civiltà, giusto? Nella fattispecie analizzi e giustifichi l'esistenza di una complementarietà di elementi, per così dire, opposti che vadano a costituire un unico grande ordine. E nelle mail mi hai rivelato che da una vita che ti occupi di rivoluzione operativa per una civiltà della consapevolezza e della decisione in comune, e nel tuo libro La funzione ideologica delle teorie e della conoscenza si parla di un'illusione sistemico-procedurale per quanto riguarda il processo conoscitivo, che altro non può fare se non garantire una copia filtrata di un ente esterno che a noi non può essere conoscibile nel suo intimo. Non so se non ti trovi propriamente d'accordo con questo che sto dicendo. No, vorrei innanzitutto provare a fare chiarezza per gli ascoltatori che ancora non sanno magari di cosa si sta parlando, che non hanno ancora sentito parlare di metodo e rivoluzione operativa. Mi piacerebbe che tu provassi in breve a spiegare l'origine del metodo operativo, i suoi legami con la cibernetica. Sì, molto volentieri e molto anche con semplicità. Credo che questa rivoluzione operativa nasca essenzialmente dall'insoddisfazione nei confronti della storia della filosofia. Infatti non amo chiamarmi filosofo, in linea di massima preferisco essere chiamato metodologo, nel senso che mi occupo di ciò che precede un risultato. Il filosofo molto spesso prende tutti i risultati come già fatti, ed è contro la storia della filosofia essenzialmente che nasce la rivoluzione operativa, che diciamo sorge all'indomani della cibernetica degli anni, degli anni 40 e anni 50 in Italia. E l'idea di fondo qual è? È quella, in fin dei conti, che già trovi in Platone, se vogliamo. Platone, quando ad un dato momento ci parla del mito della caverna, ci dice che tutti quanti noi siamo, in fin dei conti, come fossimo legati, incatenati al fondo di una caverna, e se del mondo esterno essenzialmente potremmo soltanto vedere le ombre proiettate sul muro. Ora, questo, in fin dei conti, è lo stato di ciascuno di noi. Nessuno di noi può uscire da se stesso, e qualsiasi cosa venga detta è pur sempre stata detta da qualcheduno, qualsiasi giudizio venga espresso è pur stato espresso da qualcuno. Pertanto il pretendere che ci sia qualcheduno che sappia come stanno le cose è, in fin dei conti, diciamo, la pretesa tipica della filosofia, che ha servito da stampella per ogni forma di potere da che mondo è mondo. La filosofia giustifica i poteri, giustifica le differenze, giustifica le asimmetrie sociali, e come tale, in linea di massima, va combattuta. Come? per esempio ricostruendo quelle che sono le responsabilità nostre nei confronti dei concetti che utilizziamo, per esempio ricostruendo quelle che sono le operazioni mentali che ci portano a quei risultati. In questo senso mi definisco metodologo e non filosofo, perché per l'appunto indago, cerco di indagare, e non è un'impresa del tutto facile, perché essere metodologo nei confronti di una sedia o di un armadio è abbastanza facile, esserlo nei confronti dei nostri concetti e delle categorie che utilizziamo ovviamente è leggermente più difficile, perché occorre averci un modello dell'attività mentale e dei rapporti di questa attività mentale con il linguaggio che usiamo. Bene, io mi rifaccio essenzialmente a quelle idee che circolarono intorno agli anni 40 e 50 del secolo scorso, in cui per l'appunto si cominciò ad evidenziare e far emergere questa esigenza fondamentale, quella di riuscire ad averci un modello dell'attività mentale che possa a un dato momento, diciamo, far piazza pulita di tutte quelle pretese dei filosofi di sapere come stanno le cose. Sì. Compito facile. Compito non facilissimo, perché contro di ciò essenzialmente c'è un intero sistema. È ovvio che coloro che stanno al potere, coloro che cercano una giustificazione delle gerarchie con le quali essenzialmente sfruttano gli altri, diciamo, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo si basa su una serie di giustificazioni storiche particolari, no? Allora deve stare al potere colui che è figlio di altri potenti a sua volta, colui che ha più denaro, colui che è andato a momento a sfruttare gli altri, e giustifica il tutto di solito tramite un ministro o un mediatore che la sappia lunga. Nell'ambito delle religioni ovviamente c'è un ministro di Dio e un prete che si arroga il diritto di sapere come stanno le cose, o di sapere meglio ancora la parola di Dio, perché funge da mediatore. E nell'ambito della scienza c'è il famoso scienziato, che in qualche maniera ci dice come stanno le cose, l'esperto al quale essenzialmente, diciamo, i defraudati e i poveri subordinati dovrebbero continuare a rimanere subordinati. E in linea di massima la storia del mondo è questa. Ecco, e a mio avviso, diciamo, le difficoltà fondamentali sono quelle che probabilmente tutto il pensiero positivo non ha compreso fino in fondo, perché se è vero lo stesso Marx, per esempio, ti scrive la miseria della filosofia, però è anche vero che alla fine una critica radicale della filosofia non la fa neppure lui, e si limita a criticare Proudhon. Cioè, in definitiva, c'è pur sempre nei confronti della filosofia una sorta di vassallaggio. Si è visto molto bene questo quando c'è stato il dibattito pre e post rivoluzionario in Unione Sovietica. Da una parte Lenin, dall'altra il gruppo di Bogdanov e dei cosiddetti costruttivisti e dei bolscevichi di sinistra, e andato a momento Lenin ha votato per il realismo, e in pratica appunto sostituendo una classe di intellettuali che dovesse sostituire coloro che rappresentavano il vecchio potere, e con ciò ha replicato gli orrori e le forme di dominio alle quali essenzialmente dalle quali il popolo e le masse operaie cercavano di sfuggire. Ecco. Sì, per quanto riguarda questa opposizione di metodologia e filosofia, no? Cioè, mi era venuto un po' in mente questo, e ponendo l'accento sull'importanza del metodo operativo e sulla novità che ha rappresentato fino agli anni 70, forse 60-70, insomma, in cui c'è stato un acceso dibattito sul futuro della scienza e della ricerca, in cui magari si doveva decidere se includere, non lo so, la cibernetica come cattedra all'interno di un'università. Mi sembra ci sia stato un tentativo a Napoli, ci sia stata qualche cattedra di cibernetica in Francia. Sono stati degli istituti di cibernetica in Italia, c'è stato un istituto a Napoli, un istituto a Genova, e c'è stato perfino anche uno a San Marino quando andava un po' di moda. Dopodiché Ce n'è stato uno molto diverso al quale ho partecipato anche, ai cui lavori ho partecipato anch'io, che è stato quello dell'università, presso l'Università degli Studi di Milano. Mm-hmm. Che differenze c'erano fra queste i concezioni della cibernetica? La cibernetica nasce negli anni 40 essenzialmente in funzione di serva delle forze militari americane. Norbert Wiener, che è colui che scrive nel 48, pubblica il primo volume intitolato La cibernetica, essenzialmente la definisce come la scienza del controllo e della comunicazione negli animali e nelle macchine, ma il suo l'interesse primigenio era il fatto di riuscire a fare dei sistemi di puntatura per l'antiaerea, dei sistemi di puntatura che funzionassero, ci fossero dei meccanismi, dei servomeccanismi che in qualche maniera retroagissero correggendo la puntatura dei cannoni. Questa è la nascita della cibernetica, quindi direi molto poco onorevole, no, per certi versi, direi proprio di no. Dopodiché devo dire che a fronte di questi studi, a fronte di queste prime applicazioni, Silvio Ceccato alla fine degli anni 40 già aveva l'idea del poter invece occuparsi della comunicazione a livello dell'essere umano e riuscire a individuare quelle che sono le operazioni mentali che l'essere umano compie nel momento in cui, per esempio, traduce da una lingua ad un'altra, nel momento in cui categorizza qualche cosa di fronte a se stesso, nel momento in cui dà un nome a quello che ha categorizzato. Esatto. Allora, lì nasce per l'appunto questa cibernetica della mente, che viene chiamata esattamente così da Ceccato, una cibernetica che si occupa del mentale. Che non è l'intelligenza artificiale, quella. Che non è l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è un'etichetta che viene utilizzata immediatamente dopo, diciamo a partire dalla metà degli anni 60 in America, che prende il posto di questi studi di cibernetica e seppellisce per certi versi anche gli studi relativi alla traduzione meccanica da lingua a lingua, perché essenzialmente si rivolge a metodi totalmente diversi, quelli che hanno portato, che so, al traduttore di Google. Noi tutti utilizziamo il traduttore di Google, però il traduttore di Google è basato su degli algoritmi che sono algoritmi di tipo statistico, mentre il progetto iniziale della scuola di cibernetica di Milano era quello di riuscire a impostare un discorso di traduzione automatica riuscendo a imitare, modellato sul modo di operare dell'essere umano, cioè di quando noi tutti le operazioni mentali che compiamo quando traduciamo da una lingua ad un'altra. Le due alternative non possono essere più diverse l'una dall'altra. Esatto. Ecco. Esatto. E cioè, per la domanda che volevo farti a partire da questo ragionamento è, secondo te, perché non è mai poi stato effettivamente possibile istituire una cattedra? Io voglio dire, ho studiato anche linguistica alla facoltà di lettere, io non ne avevo mai sentito parlare della scuola operativa italiana lo credo bene, perché è un oggetto di censura totale in definitiva, perché la stessa linguistica, come peraltro tutta una serie di altre discipline cosiddette delle scienze umane, pensa allo strapotere della psicologia e della psichiatria, sono tutte basate essenzialmente su un mondo mentale di categorie già prefabbricate, di diagnosi in per certi versi che assolutamente indiscutibili non possono essere ricondotte a un modello di operare mentale. Se ci pensi, noi viviamo da 3-4 secoli sotto il dominio e l'invadenza, la colonizzazione delle nostre memorie da parte degli psicologi, e questi sono forse le persone che in definitiva sono gli unici a non discutere mai di che cosa intendono per mente e nemmeno dei rapporti tra gli aspetti mentali e il linguaggio. Questo è una cosa di cui non ci si occupa. Definire cosa sia la psiche per uno psicologo è assolutamente inusuale, definire che cosa sia una società per un sociologo ovviamente no, è altrettanto inusuale, definire che cos'è un nome, che cos'è una parola per un linguista è altrettanto inusuale. Nel 1929 c'è stato il congresso della Società Linguistica Internazionale che aveva addirittura proibito che si presentassero delle relazioni in cui si discutesse che cos'è una parola, e se non si discute che cos'è una parola in ambito di linguistica non vorrei proprio sapere dov'è che sarebbe legittimo. Ma proprio per la derivazione stretta di questa linguistica, come di tutte le diverse discipline, discipline da degli assunti di ordine filosofico. Questo è il punto fondamentale. Lo vedi anche nel momento in cui prendi una qualsiasi grammatica elementare, la differenza tra nomi astratti e nomi concreti. Allora mi ricordo, no, la parola Dio però fa eccezione perché è un nome, essendo realmente esistente, allora è un nome concreto, e via di questo passo. Le troviamo nelle nostre grammatiche e le insegniamo ai nostri bambini, ahimè, ed è lì che essenzialmente già cominciamo a riprodurre dei tanti soldatini subalterni. Esatto. E infatti quello che a me sembra è che, cioè, il seme della rivoluzione operativa sembra strisciare sottoterra e muovere una guerra silenziosa ai metodi classicamente scientifici e deduttivi tradizionali, insomma, di quello che l'opposizione di cui abbiamo parlato prima, no? Sì. E sembra per l'appunto rivendicare un diritto ad essere contemplato nella contemporaneità come propulsore di un doveroso salto concettuale, mi verrebbe da dire. Un parallelismo che a me è venuto spontaneo è quello con gli esempi della nostra controcultura, cioè come quello degli spazi liberati e autogestiti, per esempio. Te che sei anche il redattore di Rivista Anarchica, ti chiedo, qui c'è il tentativo di approfondire l'indagine, di passare dal mero approccio politico all'approccio totipotente antispecialistico, con l'intento di creare consapevolezza e prendere assieme decisioni comuni. Intravedi anche tu questa analogia, o la vedo solo, sì, io? Ma certamente è assolutamente indispensabile, perché l'acquisire consapevolezza, e acquisire consapevolezza in ordine ai nostri processi mentali, significa anche il fatto di acquisire consapevolezza in ordine ai processi di valorizzazione. Sì. Qualsiasi nostro comportamento è determinato da dei processi di valorizzazione. Scelgo questa bibita piuttosto che quell'altra, questo cibo piuttosto che quell'altro, scelgo quell'abito piuttosto che quell'altro, in base essenzialmente a dei valori. Ora, io penso che la maggior parte del sistema produttivo tende a determinare dei comportamenti umani in cui le persone siano meno consapevoli possibile, cioè in cui i valori si diffondano essenzialmente in termini epidemiologici, sì, cioè, no? come dei virus che passano nell'inconsapevolezza totale dei poveri pazienti che andato a momento li vengono ad ospitare. Ora, il processo di consapevolezza quindi porta sicuramente in direzione totalmente contraria, e a mio avviso non può che portare verso quell'unico elemento di rivoluzione politica costitutiva, che è quello del fatto della decisione in comune. Tu prima hai citato il titolo di un saggio, mm-hmm, che verrà ripubblicato proprio nei prossimi mesi da Odradek, che è un saggio di Giampaolo Barosso, che venne discusso molto negli anni 70. Era un saggio che si intitolava "Per una civiltà della consapevolezza e della decisione in comune". Partiva essenzialmente dal problema del disfarsi, togliersi dai piedi la filosofia, cercare di arrivare ad un terreno di confronto, ad un terreno di discussione in cui potessero essere discussi i significati delle nostre stesse parole, e poter andato a momento da lì costituire il terreno perché si potesse andato a momento decidere qualcosa in comune, cioè aumentare, diffondere gli spazi di autogestione, perché questa è l'unica forma in fin dei conti dal quale poterci salvare dai sistemi autoritari. E se qui vorrei dire qualcosa che probabilmente non suona di sinistra, ma sarebbe ora anche di recuperare il discorso anticapitalistico, perché l'unico vero discrimine che c'è per la salvezza di questo pianeta è il problema del sistema capitalistico. Oggi non c'è più una forza di sinistra che in qualche maniera nemmeno osi porre la questione. Le scelte sono tutte determinate dal mettere la priorità agli aspetti economici contro gli aspetti politici, e questa logica va assolutamente invertita fino a che non sia troppo tardi. Sono d'accordo. E ok, è arrivato il momento delle domande azzardate. Il metodo operativo, secondo te, quindi, è il futuro della filosofia e della scienza e della ricerca in generale? E l'interdisciplinarietà è ciò che farà fare il salto di qualità anche nella ricerca per quanto riguarda delle scienze umane e sociali, la ricerca specialistica intendo. No, certo, tu metti un dito su una piaga di non poco conto, perché è da quando sono ragazzino, mi piace questo, da quando ero ragazzino si cominciò a parlare di interdisciplinarità, però una interdisciplinarità che non arrivi tramite la consapevolezza relativa alla costruzione dei concetti che costituiscono i diversi apparati metodologici delle diverse scienze, quella non è un'interdisciplinarità, è un accumulo essenzialmente, è un aggiustamento di un sapere che viene in qualche maniera giustapposto all'altro. Sì. L'interdisciplinarità è vera, quella a cui dovremmo mirare, è quella per l'appunto in cui possano tutte le discipline parlare e colloquiare l'una con l'altra. Metti assieme un biologo e un fisico e ti rendi conto di quali problemi ci siano, a proposito di riuscire a farli colloquiare, perché essenzialmente questo lavoro lo puoi fare soltanto dopo esserti messo d'accordo o aver approntato un sistema di analisi dei significati delle parole che utilizzano e delle categorie più o meno scientifiche che vengono utilizzate. Allora, ancora recentemente mi sono occupato di un problema fondamentale. Pensate a quanto è stata l'influenza delle culture esoteriche che hanno massacrato anche i pensieri di sinistra e i pensieri oppositivi. Cioè, bene o male, alla fine le diverse forme di superstizioni entrano o subentrano, le cacci dalla porta e rientrano dalla finestra. Allora, occorrono dei criteri ben precisi perché la scienza sia totalmente libera di quelli che sono gli influssi, per l'appunto, degli errori filosofici di partenza, non ci sia nessuna, la scienza debba essere considerata un sistema perennemente aperto, perché costitutivamente la scienza è un processo aperto, cioè, perché se no noi essenzialmente oggi, invece di riposare o di sederci sulle spalle di giganti, come diceva il buon Newton, noi saremmo semplicemente seduti sulle spalle di un mucchio di idioti, perché è ovvio che il processo scientifico di oggi si mangi i risultati di ieri, ma non è che possiamo dire che è andato vinto tutti coloro che ci hanno preceduto erano una massa di cretini. No, è fatto che costitutivamente la scienza è un processo aperto, perennemente aperto, perché possiamo sempre aggiungere un costituito nuovo o possiamo sempre aggiungere un rapporto nuovo fra due costituiti vecchi. Ecco, questo dobbiamo cominciare a saper accettare. Nessuna scienza può essere un sistema autoritario perenne, non può ergersi a sistema autoritario la scienza, perché è un sistema aperto, è un sistema del quale possiamo partecipare tutti, e più partecipiamo tutti e più abbiamo probabilità di sopravvivere, peraltro. Fra l'altro, farebbe comodo a tutti, insomma. Va bene, allora l'ultima domanda te la faccio di stampo personale. Tutto è di stampo personale, tutto, e tutto, se Dio vuole, è di stampo politico. Esatto. Se ci vuoi dare dei consigli per eventuali, appunto, prima ascoltatori, poi lettori, di libri che ti hai trovato illuminanti riguardo a tutti i temi che abbiamo trattato in questa sede. Il libro in quanto tale è sempre un'avventura, nel senso che non è facile passare dalla parola scritta al pensiero. Puoi trovare lampi di consapevolezza ovunque, e possono questi lampi anche passarti a volte inosservati senza nemmeno che te ne accorgi, nonostante il fatto che sulla pagina ci siano. È ovvio che ogni consapevolezza possa nascere al meglio da una relazione. Il porsi in relazione con l'altro è quello che tento di fare nel momento in cui assumo le vesti del docente. Pormi in relazione con l'altro credo che sia la mossa preventiva indispensabile affinché quello che posso dire possa venire accolto. Mettere a proprio agio l'altro, potergli parlare con il garbo sufficiente e averci un riscontro costante di quello che ci si dice, aprire un dialogo, mantenerlo vivo. Questo con i libri non è sempre facile. Tuttavia, devo dire che io ho trovato sicuramente dei punti di appoggio fondamentali nell'opera di Silvio Ceccato. Sono libri quasi oggi introvabili, li trovate ormai soltanto in biblioteca, ma per esempio L'ingegneria della felicità è un libro che ha scritto ormai in età avanzata, ma è un libro anche estremamente caro ed estremamente significativo. Io ho tentato di correggere per certi versi alcuni aspetti di quello che è stato appunto questo mio maestro Silvio Ceccato, a cui sarò sempre riconoscente. Poi dopodiché, come spesso capita e come in fin dei conti deve capitare, l'allievo deve innanzitutto criticare il maestro. Mi ricordo un caso, un dato momento, di uno che a un funerale per come momento cruciale per poter parlare bene di qualcuno disse: e poi non ha mai parlato male di nessuno. E io ho detto, di qualcuno per esempio male ha parlato, per esempio di te. Ecco. Perfetto. E per fortuna, perché siamo qui per correggere gli errori di chi ci ha preceduto, anche perché sennò non saremmo nel mare di guai in cui siamo. Direi. Va bene, io avrei finito. Grazie Felice. Ma grazie Emanuela, grazie a tutti voi per avermi accolto. Grazie mille. Viva.